Welcome to the fucking horror show of the world. Sopravvissuti come dopo bombe atomiche, troppo divorate dalla coscienza del denaro, le nostre membra, un mondo troppo avaro, ennesimo orrore. Divoro la mattina pazzi, sfalsati del mio passato in vano, echi di mondi divisa, strati, tagliano la mano, ennesimo orrore. Sangue, dolore, lacrime, trattenuti, di chi se ne vuole risalire, crine, in alto per vedere, respirare, o sarà la fine, ennesimo orrore. Mangio il sapore di fragole che il mondo sostituisce, bevo troppo poco dalla fonte del sole, il sole fatto nero, ero solo un bambino in fasce, ennesimo orrore. I ragazzini non capiscono, e il mondo farà sempre meno capire, sognare da adulti è la vera missione, mentre orde di passanti sono intenti a fuggire, ennesimo orrore, ennesimo orrore, ennesimo orrore. Sogni come diamanti spuntati in una prigione, di sentimenti cuori spezzati, e poi graffi a farti ricordare gli attimi di imperfezione, utili a portarsi via ogni splendore, ogni splendore. Mangio sapori di fragole che il mondo sostituisce, bevo troppo poco dalla fonte del sole, il sole fatto nero, ero solo un bambino in fasce, ero solo un bambino in fasce, ennesimo orrore, ennesimo orrore, ennesimo orrore, ennesimo orrore, ennesimo orrore. Sopravvissuti come dopo bombe atomiche, troppo divorati dalla coscienza e del denaro, le nostre membra, un mondo troppo avaro, ennesimo orrore. Sangue, dolore, lacrime, trattenute di chi ha sete e vuole risalire, crine in alto per vedere, respirare, o sarà la fine, ennesimo orrore, ennesimo orrore, ennesimo orrore. Fucking horror show of the world. Scopate i soldati eroici delle prime linee, o moriranno per dolori atroci, pulite le nostre croci con un paio d'ali. Scopate i soldati eroici delle prime linee, o moriranno per dolori atroci, ripulite le nostre croci con un paio d'ali. Sopravvissuti come dopo bombe atomiche, troppo divorate dalla coscienza del denaro, le nostre membra, un mondo troppo avaro, ennesimo orrore. Sogni come diamanti spuntati in una prigione, di sentimenti cuori spezzati, e poi graffi a farti ricordare gli attimi di imperfezione, utili a portarsi via ogni splendore, ogni splendore. Mangio sapori di fragole che il mondo sostituisce, bevo troppo poco dalla fonte del sole, il sole fatto nero, ero solo un bambino in fasce, ero solo un bambino in fasce, ennesimo orrore, ennesimo orrore, ennesimo orrore, ennesimo orrore, ennesimo orrore. Sopravvissuti come dopo bombe atomiche, troppo divorati dalla coscienza e del denaro, le nostre membra, un mondo troppo avaro, ennesimo orrore. You ever seen all of this violence?